Letture di Radio 24. Rispondere a richieste di ogni genere, anche le più assurde, sapendo che per chi ha grandi disponibilità economiche la parola impossibile non esiste. Non bisogna mai tirarsi indietro né farsi prendere dal panico, nemmeno quando il cliente chiede di organizzare un incontro di calcio tra suo figlio e David Beckham, o quando pretende di inserire un introvabile giocattolo natalizio in un uovo di Pasqua. Nel suo libro Professione Problem Solver, Helen Nonini racconta come in un romanzo i suoi anni dedicati a risolvere i problemi e a volte anche i capricci dei clienti. È il 23 aprile, una data come tante altre, una giornata mite di una classica primavera milanese. Ore 11:19. Arriva una mail da Charlie, team manager dell'area USA. Importante compagnia finanziaria ha organizzato meeting internazionale a Roma con clienti principali. Momento top, il concerto con un famoso pianista, parrucchino nero, capelli ricci neri. Ci chiedono inoltre di trovare qualcosa di sensazionale. Due proposte, incontro con il Papa o cena privata con cuoco più importante della città. Auspicabile cucina a vista e coinvolgimento dei partecipanti. Si accettano eventuali suggerimenti. Massima tempestività. Grazie, C. Scoppio a ridere. Geniale. La finanza che chiede un incontro con il Papa? Sì, certo, immediatamente. Chiami la Santa Sede e chiedi di farti passare la segreteria della direzione generale. A quel punto, dopo una breve presentazione di chi sei e della tua professione, spieghi il motivo della chiamata e il gioco è fatto. Appuntamento programmato. Scherziamo. Faccio finta di nulla per prendere tempo e iniziare a riflettere su una lista sensata di possibili alternative e soluzioni. E poi il cuoco? Va bene che stiamo parlando d'arte, ma paragonare il Vaticano con il migliore ristorante di Roma mi sembra eccessivo. Ho il sorriso stampato. Continuo a concentrarmi sulla chiesa e sul cuoco. A Roma ci sono 234 ristoranti, di cui il 75% osterie e pizzerie. Solo il 25% nel centro storico, area pedonale. Di questi, il 10% ha una recensione sulla guida Michelin e solo il 5% è riconosciuto a livello internazionale. Nessuna cucina a vista. L'unica soluzione è tipicamente inglese. Si cucina tutti insieme. La perfetta contaminazione, decisamente inopportuna per la tradizione italiana. E se fosse il cuoco del Santo Padre? Non lo scrivo nella risposta alla mail. Rifletto. Di fronte a un tale livello di creatività, è superfluo pensare ad altre soluzioni. Devo comunque abbozzare una risposta. Esco di corsa dall'ufficio con il BlackBerry in mano e mi precipito giù per le scale. Per il cuoco non c'è nessun problema. Per quanto riguarda il Vaticano, stiamo valutando la presenza del Santo Padre a Roma nella data richiesta. Prendo tempo e rispondo con logica. Un cuoco disponibile a cucinare e coinvolgere si trova comunque. E sempre. Per l'incontro ecclesiastico, occorre prima verificare l'agenda. Logico. Invio. La risposta non tarda ad arrivare. Grazie, sarebbe stupendo. Potremmo già presentare la proposta al cliente, un motivo in più per migliorare i profitti di entrambe le aziende. Fatemi sapere i dettagli al più presto. Grazie, C. L'attenzione torna al cuoco. Un passo alla volta. Si inizia sempre dal più semplice. Risultato immediato. Sbilancia a tuo favore l'opinione del cliente. Replico alla mia collega di New York, colta da frenesia di risultato. Cara, meglio non esporsi. Attendi con fiducia i nuovi aggiornamenti. Sarò più precisa entro questa notte. Informazioni precise. Food Experience Roma. Internet. Inizia il mio web tour enogastronomico romano. Come speravo, ottengo facilmente alcuni riferimenti e nominativi di fama internazionale. Ore 15. Riesco a concordare la presenza di uno chef famoso per una indimenticabile esperienza culinaria. Tiro un sospiro di sollievo, scoprendo che il cuoco è disponibile a operare in un luogo diverso dalla sua cucina, a coinvolgere direttamente i propri ospiti, a lasciarsi osservare durante il proprio operato. Ottimo! Missione quasi compiuta. Unico punto distonico rispetto alla richiesta: è impossibile cenare in cucina. In Italia la legge lo vieta. Il cibo deve essere consumato in un locale diverso da quello dove viene preparato. Ore 15:50. Informo la mia collega. Ore 15:52. Arriva la risposta. Sei grande, ottimo, avviso il cliente. E il Papa? Ce lo siamo perso? Faccio finta di nulla. Ora mi dedico anche a lui. Una sfida complicata, ovvio. Ore 15:55. Un altro campionato. Abbandono a priori l'idea di chiamare la segreteria della direzione generale per una spiegazione sommaria del problema. Tecnica di soluzione 1. Prendo tempo e rispondo con logica. Per forza o per razionalità. Come si arriva alla chiesa? Rifletto. In due modi. O attraverso la stampa e il suo organo di informazione, o attraverso la finanza. Quella di alto profilo, ovvio. La chiesa è tra i più importanti fondi immobiliari del territorio nazionale. Immobili, finanza, private equity. Triangolo equilatero perfetto. Euclide, un dilettante. Scorro la rubrica del BlackBerry. Prima azione. Lista dei banchieri inseriti e rispettivo istituto di credito. Ricerca internet e associazione a fondi immobiliari. Il parco nominativi si restringe. Società con livello di reddito elevato, le prime tre. Mi rimangono in lista solo quattro nomi. Voilà. Parto da chi conosco meglio. Trattenendo a stento il sorriso, invio un SMS. AAA cercasi disperatamente aiuto in Vaticano. Urgente. Grazie per l'invito di settimana prossima. Ci sarò. AAA. Fingo di essere cretina. Agli uomini piace. Vaticano, un nome che utilizzato in questo contesto non sembra serio. E detto da me, ancora peggio. Ringrazio per l'invito. Questo me lo concedo. Mi piacciono la forma e l'educazione. Risposta immediata. È evidente per via dell'AAA. Curioso, ma vediamo cosa si può fare. Ci sentiamo questa sera? Risposta scontata. Ho bisogno. Sì. Dall'altra parte del telefono la creazione di un fraintendimento. Una chiara sensazione di orgoglio e sesso. Questa sera dormirò comunque da sola. È una questione di spazio nel letto. Ore 23:05. Cara Charlie, sfortunatamente avrò le informazioni relative alla presenza del Papa a Roma nella data desiderata soltanto domani. Ma in prima istanza ho capito che non ci saranno chance fino alla fine del mese prossimo. Sarò comunque più precisa sui tempi e sul costo di un incontro per il prossimo autunno. Grazie e buona serata. 24 aprile, ore 11:50. Le notizie migliori arrivano sempre tra le 11 e mezzogiorno, anche quelle private. Da Charlie. Ho appena sentito il cliente e in questo momento sono presi e sottostaffati. Mi chiameranno domani per una risposta definitiva. Vi terrò aggiornati. Grazie di tutto. Costo e data ancora sconosciuti e il progetto viene sospeso. Deve essere la tensione dell'incontro. E poi passi per il Papa, ma almeno il cuoco. Come dire, una crisi di identità religiosa. Potremmo provare con un'altra cultura. Ok, attendo nuove direttive. Buon 25 aprile. Una data, una liberazione. Evviva la finanza! Evviva la finanza ecclesiastica! Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Helen Nonini, Professione Problem Solver, gruppo 24 ore editore, 160 pagine, 18 euro. Il caffè è eccitante? Ma che? È solo un placebo. Lo dicono i ricercatori della University of East London, che hanno testato un campione di consumatori di caffè, somministrando ad alcuni un espresso e ad altri un deca. Ebbene, nei caffeinomani decaffeinati, l'eccitazione e lo sprint sono risultati addirittura superiori rispetto a quelli di coloro che avevano bevuto caffè normale. Ergo, è il piacere a darci la carica e non la caffeina. Il risultato della ricerca è particolarmente significativo, perché va contro l'imperativo farmacologico imperante. E poi perché è in sintonia con gli sviluppi recenti delle neuroscienze, che proprio nelle ricerche sull'effetto placebo vedono studiosi italiani come Fabrizio Benedetti dell'Istituto Nazionale Neuroscienze di Torino in vetta alle classifiche mondiali. Questi scienziati insistono sulle reazioni biochimiche prodotte dalle emozioni positive sulla nostra mente e sul nostro corpo. Insomma, l'acqua zuccherata può diventare un vero principio attivo, come possono diventarlo un inganno innocente, una passione che riaccenda il nostro motore o un simbolo che faccia da catalizzatore di energie. L'antropologo Claude Lévi-Strauss già negli anni 40 coniò il termine efficacia simbolica, mostrando come la musica, i miti e i canti degli sciamani del Sud America innescavano processi di guarigione senza medicine. Oggi diremmo che stimolavano la produzione di endorfine, come il caffè, purché sia buono, se no che piacere è. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marino Niola, La carica del caffè, effetto placebo, dal venerdì di Repubblica del 30 settembre.